Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, 18ª puntata. A Morutri era corsa voce che l'avvocato Cannavale fosse morto. Nessuno sapeva esattamente le ragioni che avevano spinto i fascisti a buttarsi addosso alla capra del diavolo e al professor Barberi. Per il professore, che Don Settimio definì un bestemmiatore, un nemico di Dio, corruttore della gioventù, la cosa apparve spiegabile. Ma per l'avvocato Cannavale, di cui era nota la fondamentale bontà, la faccenda pareva più oscura. Qualcuno insinuò, e non si seppe mai da quale fonte la voce partisse, che la giovane moglie fosse diventata amante di Giancarlo Pistalli e che i due avessero concordato di fare ammazzare la capra del diavolo. Per non avere responsabilità dirette, avevano istigato al delitto della gente mescolata tra quelli che ascoltavano il discorso. Ma poi le notizie divennero più esatte. Si seppe che l'avvocato Cannavale non era morto e le sue ferite non erano gravi, ma l'impressione ricevuta era stata grave. Enrico si aggirava per le stanze come uno smemorato, rifiutando di nutrirsi e di rispondere alle domande che gli venivano fatte. Per qualche giorno, dalle terre del Sacramento, scomparvero anche i guardiani che venivano dalle masserie del Frassino. I pastorelli potevano scorrazzare a loro agio tra forre, botri e macchie. Nelle case di Morutri la provvista invernale di grano si era assottigliata. Come al solito, con la dolcezza della primavera, incominciava la fame per i contadini di Morutri. Uscivano tutte le mattine e si spargevano per i campi con un pezzo di pane bigio nella bisaccia, una cipolla o una testa di aglio. Si recavano nei piccoli campi ai margini delle terre e facevano dei lavoretti di sarchiatura per estirpare l'erbaccia dai solchi. Erano poderetti che in quei giorni venivano accarezzati delicatamente come per un lavoro di oreficeria. I ragazzi e le donne accumulavano i sassi accanto ai muretti di cinta o andavano nell'interno del feudo a prendere corbe di terra e di foglie e fradice per riempire i vuoti lasciati dalle alluvioni invernali. Ricomponevano il piccolo campo con le giumelle a brano, ma erano tanti su piccole strisce di terra e dopo qualche ora di lavoro non avevano più nulla da fare. A maggio le giornate erano lunghe come la misericordia di Dio. «Incomincia la costa di maggio», dicevano i contadini. La costa di maggio era la fame di maggio. Da che mondo era stato mondo, il sole stupendo della primavera dava fame e promesse. Quel digiunare lungo si accompagnava con la diminuzione della fatica per gli adulti, ma tutto pareva predisposto perché i ragazzi chiedessero pane più che in altre stagioni dell'anno. I genitori parlavano della costa di maggio come di un avvertimento, che fosse valido non solo per quell'avidità giovanile di cibo, ma perché si imprimesse nella memoria come preparazione per i digiuni futuri. In quei giorni i contadini che possedevano terra non avevano bisogno di aiuto, e i giornatanti oziavano per le strade di Morutri o andavano per le macchie a cercare asparagi. Si parlava di lavori che dovevano incominciare nella piana, della strada che avrebbe dovuto congiungere Morutri con la ferrovia elettrica. Si parlava di pietre da portare a spalla nelle corbe, di carriole da spingere, di mucchi di terra da rimuovere con la pala, come di un avvenimento che, per essersi verificato qualche volta nel passato, poteva ancora accadere. Lavoro nella campagna aperta, pane bianco, il mezzo litro al bettolino del cantiere, qualche sigaretta comprata allo spaccio e non le sigarette di tabacco da pipa avvolto nella foglia secca del grano turco. Ma nessuno sapeva dire esattamente dove e quando ci sarebbero stati questi lavori. Quest'anno avremo stagione buona e si potrà scendere presto alla piana, prima che vengano i massari per l'ingaggio, diceva Michele Casalfiore. Ma ci vogliono più di 30 giorni ancora, rispondeva Antonio Antonacci. E a passarli ti voglio. Sono passati sempre e non è morto mai nessuno. Io mi ricordo un anno, diceva un vecchio, in cui per tutto maggio mangiammo erba soltanto, come le pecore, e granone bollito. Ed ecco qua, la gente adesso non ha più pazienza. Questo la fame la chiama pazienza, fece Antonio Antonacci. Gli altri risero, ma era raro che discorressero i giornatanti di Morutri. Di solito attendevano tacendo. C'erano pomeriggi lunghissimi in cui, seduti sul muricciuolo diruto davanti alla chiesa, guardavano nella valle senza dire una parola. Quella concordia nel silenzio e nell'apparente attenzione poteva far supporre che ci fosse una ragione concreta nell'attesa. E invece, al di fuori del lento cammino del sole, non accadeva nulla. Una sera, un gruppo di pastori che si erano spinti fino a Macchia Loreto raccontarono che si era visto un camion traballante percorrere il sentiero a nord della macchia. Aveva raggiunto la vecchia cappella del Sacramento e aveva scaricato cemento e mattoni. Un ragazzo si era fatto coraggio e aveva interrogato il conducente. «Che ci fate con quei mattoni?» «Servono per rifare la cappella», aveva risposto. Si seppe anche che avrebbero rimesso le campane e detto messa nella cappella. Il giorno seguente altri pastori portarono un'altra notizia. Gli operai che lavoravano per ritrovare il canale della fonte Spidalieri erano aumentati di numero e avevano scavato già dei fossi dove si raccoglieva l'acqua. I giornatanti di Morutri si spostarono a monte del paese, oltre le ultime case. Dalla contrada campanina si vedevano le terre del Sacramento. Ma a quella distanza era impossibile controllare se i ragazzi avevano detto la verità. Antonio Antonacci e Michele Casalfiore, una mattina, percorsero i sentieri oltre Macchia Loreto e videro che degli sterratori lavoravano intorno alle mura diroccate della cappella. «Che gente saranno?» chiese Antonacci. «Potrebbero essere di Pietrafolca», rispose il compagno. «Rifanno veramente la cappella». «Ma gli casca addosso», disse Casalfiore. «È caduta già 3 o 4 volte. Nessuno dei vecchi ricorda messe alla cappella del Sacramento. Chi ci mette le mani chiama fulmini». Si avvicinarono cautamente. «Buongiorno», disse Casalfiore. «Siete stanchi?» Uno degli sterratori si volse lentamente e rispose: piano piano. Rifate la cappella? Noi sterriamo e scegliamo le pietre buone. Dicono che rifanno la cappella. Quelli lo sanno, aggiunse lo sterratore indicando un gruppo di uomini che accatastavano mattoni sotto una baracca di legno. Non sono né di Pietrafolca né di Calena, disse sottovoce Casalfiore ad Antonacci. Casalfiore e il compagno si avvicinarono alla baracca. «Venite di lontano?» chiese Antonacci. «Siamo di Pesco Pennataro», rispose uno dei muratori. «E voi? Di dove siete?» aggiunse dopo aver esaminato con uno sguardo apparentemente distratto i due braccianti. «Siamo di Morutri», disse Casalfiore indicando vagamente l'orizzonte. Il muratore ammiccò al compagno e quello fece con caricata gravità: «Questa volta vi facciamo una cappella che non avrà paura dei fulmini». «E come fate?» disse Casalfiore. «Ci mettiamo i parafulmini», fece ridendo il muratore di Pescopennataro. Mentre percorrevano la strada del ritorno, i due braccianti ripensavano alla risposta del muratore di Pesco. Castelfiore disse: «Ma perché la rifanno questa cappella?» «Ci dicono messa. Deve essere la nuova padrona che lo vuole. Servirà per i suoi peccati e per quelli della capra del diavolo.» «Il parafulmine», continuò Antonacci, «scaccia i fulmini e i fulmini vanno a cascare in un altro posto. Noi che siamo più in basso, a Morutri, ce li prenderemo tutti noi. E poi ci sono le sette pregne. Quelle girano e vanno a scoppiare qua e là come i fuochi d'artificio.» Ma la sera, giunti a Morutri, i due braccianti seppero la ragione per cui nelle terre del Sacramento stava risorgendo la cappella. Era tornato Luca Marano da Calena e aveva detto ai primi contadini che aveva incontrato: «Stasera dovreste venire al fondaco di San Carlo. Io vi dovrei dire una cosa. Dovreste venire tutti, far venire anche le donne. Si tratta delle terre del Sacramento e tutti hanno interesse a sapere quello che succede.» La madre di Luca, quando seppe che il figlio doveva parlare delle terre del Sacramento, si mise in allarme. «Ma che vogliono fare?» aveva chiesto a Luca. «Vogliono far coltivare le terre. Tutti i contadini di Morutri e i confinanti di Pietrafolca dovrebbero avere una parte delle terre da coltivare. Poi i padroni le darebbero a censo ai coltivatori in proporzione del numero dei figli.» «Non si può mettere le mani su quelle terre. Lascia stare, Luca. Sono terre maledette. Portano disgrazia.» Luca sorrise e fece un cenno vago con la mano, come per dire che si trattava di storie vecchie che ormai non contavano più. Seppe Marano, che era tornato con un carico di legna da Macchia Loreto, disse: «Dare la terra a censo? Va bene. Ma di chi sono le terre? C'è ancora la causa del comune», dice Don Settimio. «La capra del diavolo non la vincerà mai.» Ma la sera Luca spiegò ai contadini riuniti nel fondaco San Carlo che la causa non c'era più. Il prefetto ha fatto un accordo tra il comune di Pietrafolca, quello di Morutri e donna Laura Cannavale. Si potrà pascolare soltanto a Macchia Loreto e raccogliere la legna secca. Sarà ricostruita la cappella e vi sarà celebrata la messa. Poi tutti avranno assegnata la loro parte di terra. Si tratterà di dissodarla e ci vogliono molte braccia, tutte le braccia. Quando la terra sarà dissodata, si farà per tutti l'istrumento di enfiteusi perenne, censo a vita. È come se uno fosse padrone della terra.» Luca parlava lentamente, cercando di esporre con chiarezza il suo pensiero. Parlava con un accento persuasivo, tenendosi in mezzo ai contadini con quel suo aspetto modesto e bonario. Sembrava uno di loro. Il fondaco San Carlo era l'antica sede del Monte Frumentario, una piccola banca del grano che aveva funzionato fino a 30 anni prima. Il monte prestava il grano per la semina ai cafoni di Morutri con il quarto a tomolo, il 25% di interesse. Grano umido in prestito e grano secco a restituzione. Tomolo raso a novembre, tomolo colmo ad agosto. Nel 1898 i contadini di Morutri avevano dato l'assalto al Monte Frumentario. Lo avevano incendiato e poi avevano massacrato a colpi di accetta i due amministratori. Da allora nessuno aveva più voluto portare in processione la statua di San Carlo, che era il protettore del monte, e i 100 contadini di Morutri, che erano tornati dalla prigione dopo 7 anni, avevano assicurato i loro concittadini che era permesso bestemmiare impunemente il santo. Il fondaco di San Carlo, dal giorno dell'incendio, era rimasto deserto. Era un lungo androne dalle pareti annerite che veniva adoperato per deposito di pietre e di mattoni, o per stalle e abitazione per compagnie di zingari di passaggio. Quella sera in cui Luca aveva adunati i contadini di Morutri, l'androne era stipato di uomini e di donne. «Dobbiamo decidere noi», avevano detto i cafoni di Morutri, dirigendosi verso la riunione. «Si sa già cosa ci deve dire Luca Marano. Tutta Morutri lo sa. Ma noi dobbiamo pensarci bene», per vedere se possiamo fare quello che ci chiede. Quasi tutte le donne di Morutri avevano detto «È un figlio d'oro, Luca, ma non si deve mettere con i nemici di Dio». Lo stanzone era scarsamente illuminato da alcune lanterne cieche. Il riverbero della lampadina elettrica che era nella strada faceva appena intravedere un gruppo di ragazzi e di donne più giovani che erano rimasti fuori. «Voi», diceva Luca, «lavorerete nel vostro terreno, in quello che vi verrà assegnato provvisoriamente». «Siamo senza pane, Luca», disse una voce dal fondo. «Non si può lavorare a digiuno». «Sarete pagati», rispose il giovane. «Siccome lavorate per voi e per il padrone, non potete avere paghe intere. 3 lire agli uomini e 2 alle donne. Ai ragazzi 1 lira al giorno». «Sciala popolo!» esclamò una voce nell'ombra. Un gruppo rise clamorosamente, ma i contadini che erano nelle prime file non risero. Antonacci disse, togliendosi la pipa di bocca, «Ti ho riconosciuto, Don Carmine Fella, tu parli così perché sei ricco, ma noi non abbiamo lavoro e siamo senza pane. Anche 3 lire al giorno servono». Una vecchia commentò: «Serve pure la mollica», disse la formica. Carmine Fella, che aveva parlato e aveva fatto ridere gridando «Sciala popolo!», avanzò tra la siepe di corpi. Si mise accanto a Luca e disse: «Io non ci dovrei entrare in queste cose, ma parlo per il vostro bene. Io non ho bisogno di terre, ma dico che Luca Marano è stato imbrogliato. Per adesso le terre del Sacramento è come se fossero le vostre. Avete pagato, volte sì e volte no, un piccolo affitto per il pascolo, come quando le terre appartenevano alla Chiesa. Poi, chi vi dice che le terre saranno veramente vostre? E la causa col comune? È finita, hanno detto. Ma ne siete sicuri? E poi, pensateci bene, le terre sono state tolte a Dio». «Io dico», fece un altro che si era accostato a Carmine Fella, «che non dovete accettare. Io sono vecchio e me lo ricordo, il padre della capra del diavolo, staffato e trascinato dal cavallo sulle pietre di Cecanibbio». Quello che parlava era l'affittuario dei beni della parrocchia. Si chiamava Cesare Menna ed era fratello del sacrestano. Altri 4 o 5 piccoli proprietari uscirono dalla folla e si misero accanto a Carmine Fella. «Può essere veramente tutto un imbroglio», disse Casalfiore. «Lo dovresti dire a tuo figlio che non si faccia fregare», fece un altro che stava accanto a Seppe Marano. Il padre di Luca scosse la testa e poi disse lentamente: «Luca ha giudizio e ci avrà pensato bene. Più tardi a casa ragioneremo». Nella folla si era venuto creando un confuso mormorio. Passavano di bocca in bocca giudizi, esclamazioni, frasi monche. Una donna disse: Carmine Fella e Cosimo Acerno hanno ragione. Che facciamo qui? Andiamocene a casa. Luca ascoltava i discorsi e i commenti con le mani in tasca. Pareva che non avesse più niente da dire. Ma poi, all'improvviso, alzando un braccio, pregò tutti di fare silenzio. Ma nessuno l'ascoltava. «Datemi una lanterna!» gridò Luca e trasse da una tasca un foglio di carta. I contadini, vedendo biancheggiare nella sua mano la carta, tacquero. «Fate silenzio!» disse Seppe Marano con voce tonante. «Luca deve leggere!» Fu portata una lanterna. Michele Marano la prese dalle mani della donna e la sollevò per illuminare il foglio che il fratello aveva in mano. «Aspetta!» fece Luca. «Devo dire prima un'altra cosa. Ho ascoltato Don Carmine Fella e Cosimo Acerno. Le stesse cose che hanno detto quei due potevano dirle anche Stefano Staniscia, Pitele Falasca, Pietro Salomone, Paolo Sticco e Don Raffaele Spidalieri». I contadini tacevano. Quel lungo appello di nomi di benestanti, del cancelliere del comune di Morutri, del cognato di Don Fortunato, avevano creato negli animi un senso di stupore. I presenti incominciarono a capire che Luca doveva dire qualche cosa di molto importante. Luca riprese: «La signora Cannavale ha fatto fare un rilievo delle terre del Sacramento. Sono state ritrovate le antiche piante. L'ingegner Tallei e due agrimensori hanno rifatto le misurazioni. È risultato che negli ultimi 40 anni la famiglia di Cesare Menna ha usurpato 13 ettari di terreno che appartenevano all'antico feudo. 6 ettari e 50 are ne ha usurpato Cosimo Acerno, 7 ettari e 75 Stefano Staniscia». «Non è vero!» gridò Stefano Staniscia. «Le carte sono depositate in tribunale», disse calmo Luca, «e vi accorgerete tra poco se è vero o falso». Luca continuò a leggere una lunga lista di usurpazioni di terra. I contadini si agitarono, allungavano il collo, seguivano con intensa attenzione quelle indicazioni precise di fatti di cui avevano sempre avuto sospetto. «Adesso si capisce perché non vogliono che andiamo a lavorare le terre», disse Casalfiore. Le donne si erano tolte il fazzoletto dal capo e lo venivano torcendo con le mani, con un gesto tra allegro e rabbioso. «Bravo Luca! Cantagliele! Luca! Cantagliele!» Una vecchia disse: «Che giudizio, figlio di mamma! Non sanno che rispondere quelli che stanno seduti. I succhia inchiostro, i mangiapolli!» «Siete stati sempre ingannati», continuò Luca. «Vi hanno fatto paura con il diavolo e con la disgrazia. Ma io dico che il Signore non può prendersela con quelli che vogliono lavorare la terra e farla fruttare». Antonacci e Casalfiore fecero per primi schioccare le loro mani e le donne gridarono contente. «Noi non abbiamo paura», disse una ragazza, «ma ci vuole uno che non ci tradisca». «Tu non ci devi tradire, Luca». Luca sorrideva e guardava il suo uditorio a testa alta. «Io sono venuto a parlarvi e vi ho detto i patti. Bisogna incominciare a lavorare per ottenere l'enfiteusi. Prima è impossibile. Tra 15 giorni, un mese, la cappella del Sacramento sarà riconsacrata. Poi si comincerà a lavorare. Bisognerà togliere le pietre e fare i muretti di sbarramento. Fare i muretti dove c'è terra buona, seminare la lupinella dove la terra è sottile». «Sappiamo tutto, sappiamo fare tutto sulla terra, Luca? Domandalo a tuo padre, ne ho maneggiato di creta io», disse Marco Cece. uscirono molto tardi dal fondaco di San Carlo. Luca doveva dare molte spiegazioni ai contadini, cercare di vincere l'esitazione di alcuni che credevano di essere danneggiati dal progetto di Laura Cannavale. Un capraio diceva: «Le capre hanno bisogno di cimoli e di foglia alta. Se non potrò più andare a Macchia Loreto, dovrò vendere le capre». Un gruppo di vedove che vivevano seminando a fave brani di maggesi e d'inverno facevano raccolta di legna secca chiesero a Luca se anche loro avrebbero potuto avere le terre. «Abbiamo figli piccoli, Luca, e se a Macchia Loreto ci sarà troppa sorveglianza non potremo campare. E se ci danno la terra non abbiamo uomini per ararla». «Vi aiuteremo a fare il maggese», disse Marco Cece. 10 soldi per uno, che ci vuole?» Sembravano tutti contenti. Antonio Antonacci disse a Luca, prendendolo a braccetto: «Dovremmo andare a bere un bicchiere e potremmo anche ballare se avessimo la fisarmonica». Giuseppe Tenna ha avuto paura e ha buttato anche il grammofono sotto la croce dei missionari. Io gli dicevo che faceva male. Il grammofono è una macchina e non ha né colpa né peccato. Ma lui ha avuto paura. «Avete offerto a Cristo i divertimenti», disse Marco Cece, «e Cristo deve benedire la fatica». Quando furono soli, Seppe Marano disse al figlio: «Ho avuto paura che in quella carta ci fosse scritto anche il mio nome. Anch'io ho spostato la pietra di confine. Era un peccato. Tutta quella terra abbandonata». «Lo so», disse Luca, «ma si trattava di pochissima terra, 2 aree appena. Tutti i confinanti con le terre del Sacramento avevano spostato i confini da quando non c'era più Felice Protto, ma non erano nell'elenco. L'ingegner Tallei ha detto: non è un'usurpazione, è un rosicchiamento». «Ci ha preso per sorci», disse Seppe Marano ridendo. «Deve essere un uomo che capisce, questo ingegnere». «Tua madre però non è contenta», aggiunse Seppe. «Mi ha detto che non le piace quello che fai». Quando giunsero a casa, trovarono Immacolata Marano seduta accanto al fuoco semispento. Sferruzzava meccanicamente. «Hai finito la predica?» disse Immacolata rivolta a Luca. «Io non predico», rispose Luca. «Io dovevo dire delle cose ai contadini di Morutri». «Le cose che hai detto non mi piacciono. Ti sei messo in mano a una mala femmina. Mi hanno detto che vai tutti i giorni per i palazzi. Te la fai con la gente nobile e ti fai guastare la testa. Attento, Luca!» «Io faccio una cosa ragionevole, mamma», disse Luca. «C'è della terra da lavorare e i contadini di Morutri non hanno terra. Quando vengono le cattive annate, muoiono di fame. Hanno ballato tutto l'inverno, hanno dato l'anima al diavolo», disse Immacolata guardando Michele. «Invece di fare come le formiche, fanno come le cicale». «Ma tu non sai», disse Luca, «che non si può risparmiare quando non si possiede nulla. Viviamo di stenti e tu dici che potremmo risparmiare». «Io devo andare a Giornata e scendere alla Piana per mietere e deve venirci anche nostro padre», disse Michele Marano. «Scotta il sole nella Piana, 16 ore al giorno per 20 lire. Anche noi abbiamo poca terra. Sono 3 fazzoletti di campo che se ti ci corichi dentro escono fuori i piedi. Io dico che Luca ha ragione». «Ragione? Ha ragione», fece Beata. «Si mette con tutti i pezzenti di Morutri e abbassa la famiglia. Tu», continuò rivolta a Michele con voce più aspra, «tu, se avessi giudizio, non faresti morire le figlie di mamma. Non ti mettere sulla coscienza altri peccati». Luca si alzò di scatto e disse: «Me ne vado. Io ho parlato per il bene di tutti e voi non mi volete capire». «Il bene», disse lenta Immacolata Marano. Tu sai che cos'è il bene, che cos'è il male? Solo il Signore lo sa. Tu hai troppa superbia, Luca, come il demonio. Luca si sentì a un tratto gli occhi cupi e folgoranti della madre incatenati alle pupille. Laura Cannavale era rientrata a Calena dopo una faticosa corsa in automobile. Era di pomeriggio. La gente era tutta per la strada. Il suo ingresso avvenne dalla parte della Piazza Fraterna. La macchina fu costretta a fermare a qualche centinaio di metri dal Palazzo Cannavale. Non avrebbe potuto manovrare negli stretti vicoli di Terra Vecchia. Le donne che erano alle finestre, gli uomini che si erano soffermati con aria indifferente, spiavano l'aspetto di Laura. La sua rapida apparizione, l'arrivo insolito in automobile, parvero in corretta, decente relazione con quello che era avvenuto il giorno prima. La città si informava d'ora in ora della salute dell'avvocato Cannavale. La gente minuta aveva notizie da Elettra, da Aurelia, che si vedevano la mattina al mercato. I soci del circolo erano avaramente informati dal dottor Bulgarella. Il tenente dei carabinieri, che conduceva personalmente le indagini per il ferimento di Enrico e di Raimondo, era stato a conferire col prefetto. Alcuni ragazzi, studenti del liceo, che erano stati fermati in primo tempo, erano stati rilasciati. Il tenente affermava che era impossibile stabilire le responsabilità fino a quando i feriti non avessero potuto sostenere un vero interrogatorio. Giancarlo Pistalli sosteneva la tesi della provocazione. Si erano trovati testimoni che avevano affermato di aver visto Barberi nell'atto di fare uno sberleffo osceno all'indirizzo dell'oratore. Parole gravi di offesa erano state certamente pronunziate dall'avvocato Cannavale. Uno dei ragazzi fermati aveva sulle mani un terribile morso datogli da Barberi e molti erano i contusi per il pazzesco mulinello fatto dal professore nel gruppo dei giovani che gli stavano vicino. Non si poteva negare che il bestiale attacco di Barberi avesse dato il segnale per le vie di fatto. Non si era trovato nessuno che affermasse che il primo ad essere colpito era stato Don Enrico Cannavale. «Se si arriverà al processo, diceva l'avvocato ardente, le maggiori responsabilità, senza alcun dubbio, saranno a carico dei feriti». Le discussioni legali intorno al caso non erano molte al circolo delle professioni e delle arti. Pareva pesasse su tutti i soci il rammarico che due dei componenti del sodalizio, famoso per le sue tradizioni di gentilezza e di moderazione, fossero stati implicati in un conflitto drammatico. Tutto questo, a parte ogni altra considerazione, era nocivo per il buon nome della città. Il tenente dei carabinieri aveva fatto capire che il prefetto, d'accordo col questore, aveva deciso di aumentare la forza per Calena. La città andava attentamente sorvegliata per il suo carattere turbolento. Laura, appena arrivata a casa, accorse al letto di suo marito. Era stata costretta a trascinarsi dietro Masino che, avuto il sospetto della presenza della zia, era sfuggito dalle mani di Linda. Si era precipitato nel corridoio ed era saltato addosso a Laura piangendo e ridendo come un cucciolo spaurito. Enrico aveva la barba lunga, le orbite infossate, le guance pallide. Vedendo sua moglie, alzò entrambe le mani, le portò infantilmente alle tempie e si mise a piangere. Piangeva. tirando il fiato per le narici, con l'abbandono sconsolato di un bimbo percosso. Laura si chinò a baciarlo e gli fece una carezza sulle guance. Clelia, seduta al capezzale dell'infermo, vedendo entrare Laura, aveva fatto l'atto di muoversi per uscire. Ma Enrico, con un cenno, fece capire che desiderava che Clelia restasse. Laura le disse: «Vedi, vuole che tu rimanga, non andar via». Quando Enrico si fu un po' calmato, chiese a Laura se aveva fatto buon viaggio, poi tentò di raccontarle quello che gli era capitato. Laura lo pregò di tacere, di non sforzarsi. S'alzò e uscì dalla camera per andarsi a cambiare. Ritornò una mezz'ora dopo, rinfrescata, calma. Raccontò rapidamente i suoi incontri con il duca di Pietracatella, col barone di Santa Silia, col direttore del credito meridionale. Ma dopo qualche istante si accorse che suo marito non la seguiva più. Tacque, sperando che Enrico notasse il suo silenzio. Ma il marito pareva che avesse dimenticato la sua presenza nella camera. Continuò per qualche minuto il suo interno colloquio. Batteva le palpebre, sorrideva vagamente con le labbra smunte. Poi i suoi occhi si velarono di profonda stanchezza e si addormentò. Clelia fece alla cugina un segno con le mani per dirle che da quando aveva ripreso i sensi, Enrico si era comportato sempre a quel modo. Accompagnò Laura in punta di piedi nell'anticamera e le disse a bassa voce che Enrico doveva essere ferito più gravemente di quello che il medico non pensasse. Il dottor Bulgarella dice che si tratta soltanto di contusioni e di una ferita superficiale alla testa. Ma come vedi, non è in grado di ascoltare un lungo discorso. Si stanca, si addormenta. Quando si sveglia, piange come un bambino. È l'impressione, rispose Laura. La dimenticherà. Sono appena 48 ore. Lascia che passino una o due settimane. Ritornerà come prima. Clelia scuoteva malinconicamente la testa. Le previsioni di Laura si dimostrarono inesatte. Enrico, dopo una settimana, lasciò il letto. Pareva completamente guarito, ma era diventato taciturno e aveva l'aria affranta. Faceva qualche passo per le stanze, poi si abbatteva su di un divano e vi rimaneva per delle ore, senza dire una parola, senza leggere. Oppure si assopiva di un sonno leggero, col capo rovesciato sui cuscini e le mani abbandonate lungo i fianchi. Quando Laura gli proponeva la firma delle carte per i suoi impegni con Santa Silia, faceva uno sgorbio in fondo al foglio senza leggere. Se la moglie tentava di spiegargli la natura dell'impegno, faceva un gesto annoiato e diceva che si rimetteva completamente a lei. Un giorno, all'improvviso, lo sentì gridare come un ossesso. Accorse nella stanza del marito e vide l'avvocato Colonna che ne usciva spaurito, facendo gesti disperati come volesse far comprendere che era impossibile ormai fare con Enrico un vero ragionamento. Laura tentò di calmare suo marito, ma Enrico andava avanti e indietro, con il capo proteso e gli occhi luccicanti di rabbia. La sua collera durò appena qualche minuto. Tornò rapidamente al suo stato di stupore affranto. Una sera Laura se lo vide entrare in camera. Senza dire una parola, si accostò al letto, spense la luce, le si coricò accanto. Balbettava delle parole di incoerente tenerezza, mentre le sue mani le frugavano la pelle, tremanti, La sua bocca percorreva il suo viso con baci umidi, freddi, che le davano l'impressione del rapido moto di un grosso lombrico. Sentiva i suoi muscoli farsi rigidi sotto quella stretta, fremente e debole a un tempo, ma non osava parlare. All'improvviso le venne in mente l'idea che suo marito fosse diventato pazzo, che quell'abbraccio potesse trasformarsi in una stretta omicida. Sentiva la fronte che le si bagnava di sudore freddo e il cuore che le picchiava a martello nel petto. Ma più rapidamente di quello che non prevedesse, sentì sciogliersi l'orgasmo del maschio stanco. Enrico si era abbattuto, spossato, al suo fianco. Quando l'affanno del suo respiro si calmò un poco, si alzò, senza dire una parola. Al buio raccolse la vestaglia che aveva deposto sul letto, entrando, e si allontanò. Laura rimase a lungo nella posizione in cui suo marito l'aveva lasciata, chiusa in una prostrazione dolorosa. Quando fu in grado di muoversi, si alzò, accese la luce, versò in un bicchiere un dito d'acqua e si preparò una pozione calmante. Si rimise a letto, ma non riuscì a dormire. Suo padre l'aveva accolta con una allegria allarmante. Le aveva comunicato che sarebbe partito prestissimo per riprendere il suo posto a Napoli. Per questa ragione aveva avviato una fitta corrispondenza col ministero. Le comunicò anche che stava scrivendo una grande opera sulla prescrizione ereditaria che lo avrebbe fatto automaticamente diventare socio delle maggiori accademie italiane e straniere. In verità, nonostante questi suoi programmi ambiziosi, passava intere giornate a leggere sempre lo stesso libro. La sera, prima di andare a dormire, lo chiudeva e la mattina, dimenticando completamente le pagine lette il giorno precedente, ricominciava dal primo capitolo con lo stesso laborioso interesse. Solo raramente usciva da questa sua inutile e placida fatica per fare delle tremende sfuriate a Gianfilippo. Il ragazzo, da quando il professor Barberi non gli dava più lezioni, rimaneva molte ore del giorno in casa, girovagando per le stanze, inquieto, insolente, perverso, incapace di rimanere sia pure per breve tempo a tavolino a leggere o a studiare. Laura un giorno si era accorta che da una panoplia erano scomparse due spade. Dopo un lungo interrogatorio era riuscita a sapere che erano state sottratte insieme a due pistole da maschinate da Gianfilippo. Pistole e spade erano state nascoste nel muro di cinta del giardino. Gianfilippo ed Ercolino Barberi si erano proposti di armare una banda di ragazzi che al momento opportuno avrebbe vendicato l'avvocato Cannavale e il professor Barberi. Laura aveva tentato di castigare Gianfilippo, chiudendolo nella sua stanza e ordinando alle cameriere di servirgli per due giorni soltanto pane e minestra. Ma Giorgina, Elettra, Clelia si erano messe d'accordo per violare la reclusione del ragazzo, che aveva passato due giorni a rimpinzarsi delle cornie. Era riuscito anche a procurarsi una sega, dei chiodi e un martello e aveva cominciato a demolire la parte interna di un armadio per fabbricare una gabbia per due civette che momentaneamente aveva affidate in custodia a Domenico Ganiele, il portinaio orbo. Laura aveva rimproverato con insolita asprezza sua cognata, Elettra e la cuoca. La cognata aveva risposto con un fiume di lacrime. Avevano invocato l'anima di suo marito e tutti i suoi angeli che assistevano impotenti alla sua umiliazione, al suo martirio. Le serve si erano rifugiate in cucina come in una trincea e per qualche giorno non avevano osato uscirne. Ascoltavano con sospiri di consenso le lagrimose recriminazioni della vedova di Titta de Martis, facendo comprendere che erano solidali col suo giustificato rincrescimento. Laura s'era accorta che la tendenza della sua famiglia a disertare l'ala della casa nella quale abitava s'era fatta più decisa. Anche Enrico, nei rari momenti in cui usciva dal suo abbattimento, percorreva a passi furtivi il corridoio e andava a rifugiarsi nella stanza in cui Giorgina, Clelia e le due bambine passavano gran parte dei giorni agucchiando, discorrendo, prendendo il caffè, comunicandosi le notizie della città, parlando forse in modo aperto ma velenoso della sua crudele tirannia. Il placido contegno di Clelia faceva sospettare a Laura che Enrico si alzasse la notte e andasse nell'altra ala della casa per farle delle visite notturne, come aveva fatto per tanti anni. La nuova famiglia si era inserita nel nucleo trovato a Palazzo Cannavale con un moto naturale di assestamento, escludendo la sua presenza, isolandola in un alone di inespresso astio. Il processo per il ferimento dell'avvocato Cannavale e del professor Barberi, mancando la querela di parte, si trascinava per gli uffici della procura e non si sarebbe forse svolto prima dell'inverno seguente. Luca stava pochissimo in città. Se capitava qualche volta al circolo, tutti gli chiedevano di Morutri e della trasformazione delle terre del Sacramento. Il fatto che egli avesse quotidiani rapporti con donna Laura Cannavale aveva finito col conferirgli un insolito prestigio. Dei soci che non gli avevano mai rivolto la parola facevano con lui delle brevi ed amabili conversazioni. Pareva che quel figlio di contadino, timido, ben educato, fosse stato assolto per un segreto processo dalla sua colpa di origine e stesse, per comune consenso, acquistando i titoli per essere ammesso ai primi gradini di un'altra categoria sociale. Vedeva raramente i suoi vecchi amici. Il canonico aveva provocato un incontro di pacificazione con Gesualdo. Luca si era prestato di buon animo, ma si era rifiutato di giocare con Don Benedetto Ciampitti. «Quello fa il pazzo», disse Luca seriamente, «ma si accorge di tutto. Ci fa vincere per farci l'elemosina». «Tu te la fai con i ricchi», insinuò con sorniona ironia Gesualdo, «e rifiuti le elemosine di Don Benedetto». «Io lavoro», disse Luca con voce ferma. «È diverso». «Chi lo sa se è diverso?» aggiunse Gesualdo. «Io ho riflettuto da quel giorno che venisti da me a farti la barba. Ho pensato che noi, quando aiutiamo i ricchi, lo facciamo sempre per farci fregare». «Non è sempre così. Adesso io lavoro perché vorrei aiutare i contadini di Morutri. Stanno senza pane, campano male, peggio di noi. Se potranno lavorare le terre del Sacramento, tutto andrà meglio per loro». Gesualdo sorrideva e si stropicciava ogni tanto gli occhi gonfi. Poi, vedendo passare il colonnello, un cameriere sciancato del circolo, gli disse: «Senti, colonnello, noi avremmo voglia di bere un caffè, ma io oggi sono in possesso soltanto della speranza di pagarlo. Vedi se ti riesce di avere fiducia in me». «Lascia stare», fece Luca. «Posso pagare io. Vedo che le terre del Sacramento cominciano a fruttare», mormorò Gesualdo. Luca ebbe un moto di collera. «Calmati, Luca. Hai sempre troppa energia. Segui il mio consiglio. Va a letto con la moglie della capra del diavolo, se ancora non ci sei stato. Fatti dare molti quattrini e non pensare a guai. Su, non ti arrabbiare. Io ti do dei consigli. Non c'è nulla di offensivo, mi pare. Con te non si può più parlare. Bevi il caffè adesso e raccontami piuttosto che pensa Don Settimio di tutto questo affare. Mi hanno detto che la parrocchia dovrà risputare 13 ettari di terra e che il cognato dell'arciprete è partito per Napoli. Vuol riaccendere la causa del municipio di Morutri per gli usi civici. Tu ne sai niente? No, fece Luca. So soltanto che Don Settimio manda tutte le mattine qualcuno a vedere la cappella. Spera sempre che sia crollata durante la notte. Canonico, fece Gesualdo, tu che sei o dovresti essere esperto in materia, se dal cielo cascano fulmini sulla cappella, a chi va attribuita la responsabilità? A Dio o al diavolo? Al fulmine, disse il canonico ridendo. Non c'è che dire, fece Gesualdo. Le meningi del canonico incominciano a funzionare. Luca approfittò d'un momento di pausa, poi disse: «E la rivoluzione come va, Gesualdo?» «Ah, la rivoluzione. Non mi piace più da qualche tempo. Mi pare che la vogliano fare con l'aiuto del Papa e del Re. Hai ragione tu. È una rivoluzione da ricchi, anche qui a Calena. Gli ideali sono vestiti troppo bene e vanno d'accordo con Monsignor Vescovo. L'altra domenica, quando tu eri a Morutri, Pistalli ha portato i suoi mocciosi inquadrati alla messa. Hanno fatto il presentatarm al Santissimo col manganello per aria. Ma se tu sei persuaso di queste cose, disse Luca, perché non le spieghi ai tuoi ex compagni? Io, fece Gesualdo sbadigliando, io non sono filantropo come te. E dopo un attimo aggiunse: io la rivoluzione me la farò da solo. Se riesco a mettere insieme 2000 lire, vado a fare la carogna in un altro posto. Lo dici sempre e non lo fai mai, disse il canonico. Non ho mai le 2000 lire, perlomeno non le ho mai tutte insieme. Vedi, canonico caro, io ho pensato qualche volta di procurarmele in maniera, diciamo così, irregolare. Ho pensato che tu, per esempio, avresti potuto aiutarmi ad accoppare Don Benedetto Ciampitti. Ma poi ho avuto pietà di me e di te. Non è possibile fare senza guai una cosa del genere in questo lurido buco. Qui ci vigiliamo. Ognuno di noi ha 10.000 guardie alle calcagna. Nessuno si muove senza che gli altri lo sappiano. Per questo siamo moralissimi tutti, a Calena, come si è morali in galera. Parlava calmo, ora ridendo, ora strizzando gli occhi, fumando sigarette una dietro l'altra. Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.